Bella raga! Buonasera a tutti! Pronti? Lunedì? Beh, io Marzi sempre pronta! Lo so! Prontissimo! Ok! Hai schizzato Rec, Fede? Certo, Marga, non ti preoccupare! Ok, pronti là! Vai! Ma con ora arriva il lunedì e ti parliamo da 2 anni! Cara amica mia, promettimi che poi ci ascolti ancora. Se qualcuno poi non è lì con te, non è lì con te, tranquillo, ci siamo noi tre. E dai, sono un'ora, un quarto a Milano su, ma poi parliamo d'altro fuori dal comune. Giungla, vasta zona di terreno basso e umido, tipica dei paesi equatoriali e tropicali, interamente coperta da fitta e intricata vegetazione. Eccoci! Ciao! Ma sento un po' di un po' di eco! C'è un effetto, perché non lo sapevate, ma ho organizzato tutto questo, facciamo diretta dall'acquario di mia zia. Bellissimo! Siamo in diretta dall'acquario di Genova stasera, benvenuti. In occasione di questo Benvenuti all'acquario tutti. Di Genova. Perché in fondo c'è una giungla anche acquatica. Assolutamente, quindi... assolutamente. No, in realtà forse a casa non ci sentono con l'eco, però... Beh, ragazzi, allora sapete dove scriverci per dirci se ci sentite sull'eco, ma non sarò io a dirvelo, ma sarà Marzi. Ciao a tutti, anche quest'oggi noi mi sento un po' più che con l'eco, mi sento come quelle voci tipo in, non so, all'acquatica, quei posti là, no? Che fanno la radio nel... Glinglon, bitte danke, under frischten, esatto. Kinder... Perduten Verloren, ovviamente. Bando alle ciance. Allora, per piacere, qualcuno ci può scrivere. Sempre siamo fuori uso con il nostro amico Telegram. Quindi, per piacere, qualcuno ci scrive su Fuori dal comune stava preso su Instagram. Se ci sentite con l'eco o no, perché oggi è tutto un po' un... Oggi è tutto un problema tecnico continuo, ma li abbiamo risolti nella maniera migliore possibile. Esatto, li abbiamo risolti tutti e non trovo ragioni per cui non risolveremo anche questo. Esatto, risolveremo esatto. Anche questo, e nel frattempo se ci sentite con un eco potete usare l'emoji del pesciolino. Sì. Se ci sentite bene direi il pollice alzato. Esatto, sì. Pesci su Instagram, please, se ci sentite con l'eco, se no... Pesci su Instagram. Esatto, cioè, gli unici pesci su Instagram che hai già... che accetteremo anche anche dei cuori. Comunque ci è arrivato un primo feedback. Sento un lieve fruscio di mare, ma è quasi piacevole. Ok, perfetto. Ok. Vai Marzi, vai con i contatti. Per noi che è terribile. Sì, vai Marzi con i contatti. Allora, i contatti, il main contatto l'ho già detto, comunque ci trovate su Radio Zam, che è esattamente quella che state cercando. No, quella dove siete, sì. Quindi potete copiare e incollare il link e inviarlo a tutti i vostri amici, tanto lunedì sera piove, chi cosa dovete fare? Nulla. E quindi vi diciamo noi cosa fare della vostra vita. Esatto, quindi ascoltateci e fateci ascoltare, soprattutto perché ci state già ascoltando, e se no scriveteci, cioè... E scriveteci personalmente esatto. Al numero 3-4. Allora, adesso prendo le fila. Scriveteci per piacere. Scriveteci per piacere su Instagram durante tutto l'arco della nostra puntata, perché vi risponderemo esattamente come se fossimo al centro commerciale, come in questo momento mi sento. Vi faremo anche sentire molto importanti, dando spazio. Esatto. Daremo spazio alle vostre voci, alle vostre storie, solo se ci scrivete su Fuori dal comune stava preso, che è un account Instagram, in cui ci potete mandare dei messaggi in DM o commentare le nostre foto, così, per creare più engagement. Okay. Sì. E dire che cosa ne pensate della puntata e raccontarci quello che volete. Perfetto. Io direi che nel frattempo che sistemiamo le zone grigie di questa puntata... Possiamo mettere il prossimo pezzo? Ah, già, partiamo col prossimo pezzo senza neanche dire cosa... Va bene. Sì, così intanto così facciamo un po' di... Sentiamo anche un po' il mood. Ce l'ho già un pezzo pronto. Non era in scaletta, ma okay, ce l'ho. Ok, cominciatevi a farvi venire delle idee su quale potrebbe essere la puntata. Quindi buon ascolto, vi lasciamo con i Jungle Buzz Earning. Eccoci qua. È tornato anche l'eco. Sempre più forte. Ma da casa non lo sentono, quindi noi siamo dei veri professionisti e andremo avanti tutta questa ora e un quarto, ora e mezza che ci divide dalla fine di questa puntata all'interno dell'acquario di Genova. Esatto, probabilmente vomiteremo alla fine di questo. Mi sento un po', se avete presente BoJack Horseman, che ha fatto una puntata interamente ambientata nell'acqua. Sì. Così. O Blanco con i suoi ultimi live. O Blanco, esatto. In fondo stiamo seguendo un trend. Sì. Perché? Perché Blanco con gli ultimi live? Perché Blanco ha fatto il primo live tipo sotto l'acqua. In una vasca. In una specie di vasca, in una specie di acquario. Profondissima, dove lui suonava in questo corridoio e, se ho capito bene, i fans con le bombole e robe del genere lo guardavano dall'acqua. Sì. Ecco. Ma lui era... Non era in acqua, ovviamente. Tu immaginati così, lui, visitatore dell'acquario di Genova, i fan, i delfini. Orche. Ok. Ce l'hai? Ce l'ho. Mi ero persa questo content. Sì, è così. Il tema della serata di stasera è proprio giungla. Quindi non il mare. Non il mare, no. Non l'eco. Non l'acquario, la giungla. Non il riverbero. Perché questa vita è una cazzo di giungla. Volevamo iniziare così. Diciamolo. Quindi a questo punto espressione direi... resa famosa da... Non lo sappiamo, dicelo tu, Fede. Questa vita è una cazzo di giungla? No, senza cazzo. Ah, questa vita è una giungla. Chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha detto? No, in realtà l'espressione è questa giungla mi distrugge. Ah, ok. Ah, le gocciole. Erano le gocciole. Le gocciole. Vabbè, goccioli, se ci state ascoltando, se volete diventare sponsor di questo programma, noi ci siamo. Assolutamente. Voi ci siete, noi ci siamo. Siamo disposti a fare una puntata sulla giungla ogni settimana. Esatto. Non vi preoccupate. A questo punto io direi una carrellata di prime cose che vi vengono in mente con la parola giungla. Perché la giungla? Perché questa non è una prima cosa che ti viene... È una domanda, quindi, la prima cosa che ti viene... No, è una domanda che seguiva quello che dicevi tu. Certo. Cioè, nel senso, carrellata di parole nostre o dei nostri... Nostre, dai. La prima cosa che mi viene in mente della giungla è l'umidità a me. Ok. Io... il libro della giungla. Le liane. Ottimo, okay. Ottimo. Abbiamo tre visioni diverse di quello che è la giungla. Comunque, abbiamo deciso di parlare di questo fantastico tema perché... Perché al solito abbiamo una grande motivazione. Esatto, e quando, come sempre, abbiamo attivato il nostro generatore di temi per le puntate, che si chiama Marzianelli, e ha detto, potremmo fare una puntata... Se volete posso anche essere pagata per altri programmi per altri fare programmi, questa cosa. Okay. A questo vieni gratis. A questo vengo gratis, okay. Per la fama. Per lo sponsor. E quindi abbiamo detto, ok, che cosa facciamo? Ah, potremmo fare così, potremmo fare cos'ha. E la Marzia ha detto, raga... Ma perché non facciamo sulla giungla un po' jungle, un po' vibes non aver esotiche? Detto così. No, ho usato la parola tropico, tropical. Sì, ho detto tipo tropico, poi ho detto la giungla. La giungla. Yeah. E noi ci siamo subito gasati. E noi abbiamo detto sexy. Perché no? Questo perché è il fatto. Quindi così nasce una nostra puntata. Esatto, sapete base. Anche sapete quindi anche mi dispiace questo... amanti del daiquiri, non parleremo di daiquiri perché abbiamo deciso di non parlare di tropici. No, no. Parleremo proprio di giungla. Giungla. E la giungla ci attiva nella testa, non solo a noi, visto quello che poi siamo andati a vedere, a un sacco di altre persone, una sequela di emozioni, immagini, fatti. Che ti attivano diversi tipi di sentimenti, insomma. Abbiamo tipo nella letteratura, nel cinema, nel cinema, nella musica, cioè un sacco di cose. Se pensate anche solo al cinema e alla letteratura, abbiamo una valanga di cose che parlano della fantastica giungla. Anzitutto, Mowgli è diverso da Tarzan. Sì. Questo lo dico perché in questa stanza non dirò chi credeva che fossero la stessa persona, o meglio uno il padre dell'altro. Allora, io sono un attimo confusa sui cartoni. Dovete sapere che io principalmente ho guardato Cenerentola. Questo Anastasia qualcuno era Marzia. E Lago dei Se Cigni. Non l'aveste capito. Esatto. Okay. Io principalmente ho guardato queste tre cose. E basta. Piccola. Cenerentola, Lago dei Cigni, Anastasia. Ma Lago dei Cigni era della Disney? Ho detto, sì, certo, ok, vagamente. E, okay. Quindi principalmente ho guardato queste tre cose, tutto il resto è un po' ho confusione. Tutto il resto è noia. Quindi non sono certa di quale, cioè, ok, Mowgli. Allora, Mowgli, la storia è che lui è un bambino trovato dentro la giungla, trovato che non sa se è No, quello è Balto, quello è Balto. Quello è Balto, no, aspetta. Mowgli credo sia un bambino disperso, sì, trovato nella giungla da gli amici animali. I lupi. In particolare i lupi, e dove poi, come dire, si integra a tal punto di non di credere di essere un animaletto come loro. Un lupo. Esatto. C'è Bagheera, esatto, c'è Balù. Esatto. E come finisce? Finisce che poi lui nella storia del libro lui torna dagli uomini. Uguale ma diverso Tarzan. Africa. Che mi è un po' più grande d'età, anzi muscoli. Muscoli, molto, ecco, Tarzan accende la sfera sessuale forse del bambino del bambino che guarda Tarzan. Strong statement. Non lo so, però se Mowgli è un po' più il bambinetto, invece sì, Tarzan è già un uomo. Diciamo che nella storia, cioè i due libri, o comunque le due storie, trattano di Mowgli da quando è piccolino a quando poi, vabbè, però la sua storia, diciamo, è tutta da quando è piccolo e vive nel branco, mentre per Tarzan il fulcro della storia è lui che è già grandicello e arrivano gli altri umani nella giungla. Esatto. Okay, quindi e poi c'è l'amore. C'è l'amore in Tarzan. Si innamora, di esatto, si innamora, decide se tornare di là, se stare di qua. È tipo una Pocahontas al contrario, ma nella giungla. Sì, senza i conquistadores. No, ci sono, perché ci sono gli inglesi. Ma non erano proprio conquistadores. Ah, no, vero, non sono conquistadores. Ok, Pocahontas, sì, ce l'ho. Avevo okay, anche tipo quel Pocahontas. Libro dei suoni. Tu ce l'avevi? Bellissimo. Bellissimo. Tipo Pocahontas, esatto. Però nel mondo della letteratura anche del cinema Pocahontas era un po' nella giungla, no? No, era Nord America. No, Nord America, sì. Nord America, no. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque quella vibe là. Esatto. Abbiamo anche Jumanji, un non sacco di Indiana Jones. Allora, amici che volevate assumermi come autrice, non chiamatemi quando si parla di cartoni animati. Sulla Disney no. La Disney no. Faremo una puntata sulla Disney eventualmente. Io non vengo quel giorno. Ok, io vengo. Poi veramente posso dire una cosa impopolare? Sì. Posso? Sì, dilla. Il momento delle serate o dei pigiama party o del viaggio in macchina. Tu sai che abbiamo un sacco di amici che ti stanno, esatto, per avviare. Esatto, in cui parte il momento Disney, in cui tutti iniziano a cantare canzoni della Disney o canzoni di cartoni animati, mi sta veramente sul cazzo. Non mi sento coinvolta. Il mondo è tuo. Che palle. Poi tutti quelli che la sanno tutte. Ma poi finché sai le canzoni famose, ok. Ma c'è gente che sa anche le canzoni tipo che nemmeno ma ti ha fatto Hercules, il film. Hercules, tutti sanno tutte le robe. Io ho un mio amico che ci sta ascoltando, saluto, che diciamo che le sue canzoni tra le sue canzoni top del karaoke, che già fa un effetto, ok, c'è quella di Hercules e fa già un altro effetto, secondo me. Bene ragazzi, vabbè, passiamo avanti. Esatto, passiamo letteratura, oltre. Film, abbiamo detto, musica c'è un sacco, abbiamo il nostro carissimo amico Tedua che ci ha fatto un intero album sul fatto di essere Mowgli, abbiamo la canzone più suonata nei Guitar Hero del mondo che è Welcome to the Jungle. Io non avevo Guitar Hero perché anche nel mondo dei videogiochi io sono sempre stata esclusa, ma la mia vicina di casa aveva Guitar Hero e ogni tanto andavamo là e facevamo solo questa. E i Maneskin hanno imparato su Guitar Hero, Non è vero, non è vero. Non facciamo dello shaming sui Maneskin. No, ma assolutamente. Non grande, è accolto lo shaming sui Maneskin qua? No, da me è accolto, però... Ma no, ma perché dobbiamo fare shaming sui ragazzi? Ma io non ho capito la retorica sui Maneskin, poi me la spiegate. Vabbè, esatto, te la spieghiamo in pausa. Nella puntata Volta Gabbana parleremo dei Maneskin. Esatto. Va bene ragazzi, vi sento caldi sull'argomento giungla, vedo che ci sono arrivate anche una serie di piccole segnalazioni e correzioni sul tema Tarzan e Mowgli. Ah ok, ecco. Intanto li immagazziniamo e poi ve li... Esatto. Sapevo che toccare il tema cartoni animati avrebbe scatenato l'ira delle persone che devono sempre fare i precisetti sui cartoni animati. Precisetti! Dopodiché non avremo più ascoltatori. Esatto, siete solo dei precisetti. Esatto. Ok, ma vai. Soprattutto quando parliamo di jungle, parliamo di un solo King of the Jungle. Ed è proprio lui? Ed è proprio il pezzo che stiamo per sentire? È lui, penso. Quindi andiamo con Manu Chao, Bongo Bong. Mama was queen of the mumble

Beh, che magari, ma magari, ha una magari è francese e canta in spagnolo. Vabbè, lo cerchiamo così poi dopo. Comunque siamo veramente ignoranti per non sapere neanche di dov'è Manu Chao. Dai. È un French slash Spanish singer. Ecco, dice. Qua. Eccoci, abbiamo risolto. Qua. Google ci ha detto tutto quanto. Comunque, mentre indagavamo le origini di Manu Chao. Mi è nato a Parigi. Ecco perché. Ah, ti hai visto. Boh, fine, chiuso. Bene, allora, il primo sottotema di questo grande tema. Tema umido e tropicale. Ci dicono, grazie Clara, prenditi questi 5 minuti, 5 secondi di fama. Mm-hmm. E che è un francese di merda di Parigi. Ah. Ottimo. Olè. Ma noi non vi censuriamo. Noi non censuriamo i nostri ospiti. Esatto. Ecco, i nostri qua. Ascoltatori. Va bene. Allora, il primo sottotema di questo macro tema della giungla, ricordiamolo per chi si sia fosse sintonizzato ora. Anche okay. Sintonato, non è sono incartata. È molto romantico. Brevemente romantico. Esatto, detto bella, ma sbatti. Esatto, allora la prima cosa che ci viene in mente, infatti, se pensiamo alla giungla, cioè, allora, non la prima cosa, mugli, robe, ok, vabbè, abbiamo capito, le liane. Però se poi vi chiedo, a me piace fare così, infatti prima o poi dovrò fare un corso di immedesimazione. Ok. Vai. E se io vi chiedo di chiudere gli occhi. Ah, siamo di nuovo, ok, bello, è un format. È un format, okay, vai. Chiudete gli occhi. Chiuso gli occhi. Sentitevi su un aereo, vabbè, andate, a un certo punto scendete dall'aereo privato, tipo. Sì. Ok. Ah, figata. Scendete, montate su una, tipo una macchina, quelle, tipo Jeep. Una Jeep. Ok. Mm-hmm. Andate per un po', il tempo passa velocissimo. Inizia a infittirsi questa natura, no? Dove sì. Siete in questo posto lontano. E a un certo punto arrivate, il tipo o la tipa che guida vi smolla. Sì. E siete nella giungla. Ta-da. Che cosa succede nella giungla? Fa caldo. Allora, anch'io mi sento sudaticcia. Quindi umido, sudore, un po' di ansia. Perché non per ripetere il sottotema di questa puntata, però bella, ma un po' sbatti. Questo era il so what che volevo ricaricare. Perché è grossa, cioè impervia. Buia, no? Buia. Secondo me sì, perché se è fitta. Rumori che non sai da dove arrivano. Cricro, cose. Cricro. Vabbè, gli insetti. Vabbè, insomma, la giungla mi pare quella classica cosa che anche lei potrebbe essere nella puntata Volta Gabba. Sì, abbiamo già la puntata. La doppia faccia. No, perché sinceramente mi sembra uno dei di quelle immagini, no? Immagini che noi abbiamo nella nostra testa, probabilmente molto belli, ma solo perché noi siamo abituati a non stare tanto nella natura, vero? E in cui, essendoci molta natura, diremmo che figata. Ah, ho fatto viaggi nella giungla. O veramente, esatto, dispersi. Però poi in realtà C'è da cagarsi sotto, secondo me. Ci sono gli animali, gli insetti. È pericoloso. Esatto, infatti. Non prende il telefono. Esatto. Bravo. Le paludi. Esatto. Le paludi. No, ma le paludi mobili. Sono... No, le sabbie mobili no. Beh, c'è una situazione di sabbia mobile, secondo me, tipo un laghetto. A me che sai che cosa acqua. Mi fa ansia? Le piante carnivore. Ah, le piante carnivore. Quelle che ti prendono la caviglia e ti tirano. Piena così la giungla. Esistono? No, non quelle che ti prendono la caviglia. No, sono solo nei film. Sì. Infatti parlare di cose soltanto per immagini di film è perfetto. Questa è la mia vita. Io allora, ragazzi, sono nata cresciuta a Legnano. E io a Gazzadaschiano, tu? Io a Varese. Non c'era giungla. Fuori dal comune nessuna giungla. Nessuna giungla. No, perché vi dico, in realtà la prima volta che mi è capitato di parlare della giungla, di fatto, è stata quando una mia amica ha fatto un'esperienza real, quindi real shit, dentro la giungla. Uh-huh. Mi spiego meglio. Vai. Praticamente c'era questa attività, diciamo, organizzata dalla gente del luogo. Un experience di Airbnb, praticamente. Ma dove ci troviamo? Oggi. In quale stato? Allora, Sud America, però non so, mi ricordo dove. Un generico Sud America. Il piccolo comune del Sud America. Potrebbe essere il Perù. Non siamo razzisti, siamo solo un po' superficiali. Esatto, sì, esatto. Sì. Potrebbe essere Perù. Ok, sì. Potrebbe essere Perù. Potrebbe essere Perù. Quindi, okay. Lei va, l'esperienza prevedeva un giro della giungla di giorno, che secondo me è ancora fattibile. Con la guida e ovviamente tutti quanti, tutto guidati. Sì, sì, sì. Gente con i macete, i fucili. Cose, esatto, cose di protezione personali, sì, sì, sì. E non. E a un certo punto questa gita terminava con questa grande experience che era dormire letteralmente nella giungla. Autan, come no, se piovesse. Ecco, il tema che lei mi diceva, bello, bello, perché comunque... quando mai ti capiterà mai di dormire nella giungla. Però ecco, tema serpenti, tema ragni, c'era tutta una serie di cose che il tipo della, insomma, la guida, o maschio o femmina che fosse, insomma, gli dava tutti questi trick in tips su come non essere mangiati. Ah. Ok? E io pensavo, ma come ma come fai a pensare di dormire? No, difatti. Okay. Beh, io riuscirei a dormire lo stesso perché ho il sonno molto, molto sì, pesante. Sì, però cose tipo appunto quello che diceva anche Marzi quando abbiamo preparato questa puntata, cioè un sacco di tempo fa. Però cose, adesso che mi ricordo, tipo dormire con le mani, con le mani legate, a croce, sì, sì, sì, perché sì. Se poi ti magna un serpente non te ne rendi conto. Sì, sì, cioè delle cose che... Scusami? Insomma, Marzia era disattenta, era l'abbiamo beccata. No, era la storia di Bear Grylls che diceva, esatto, che di dormire nella giungla con le braccia, detto, legate, okay. Perché una volta Bear Grylls era il tipo che faceva tutte quelle experience matte e diceva che lui dormiva nella giungla con le mani legate sul petto perché un cameraman si è addormentato con le braccia slegate e la mattina si è trovato con un serpente che gli stava mangiando il braccio, nel senso che il serpente ha pian piano, corretto, percorso il suo braccio. E la cosa divertente è che le punte delle dita di questo cristiano erano già state digerite, quindi intaccate dagli acidi gastrici del serpente. Letteralmente non si è accorto di essere quasi mangiato da un poi serpente. Il serpente non sarebbe mai riuscito a mangiarlo in così poco tempo, perché loro magari ti ammazzano e poi ti mangiano. Invece questo qua pian piano è salito, salito, salito, è arrivato tipo quasi fino al gomito e la mattina si è svegliato col tipo col serpente. Tutto questo per dire che la giungla effettivamente ci sembra una cosa stupenda, bellissima, nella giungla, fantastico, però alla fine, cioè, è una mezza trappola, può essere un tranello come tante altre cose che possiamo vedere, esatto, nella nostra e nella siccome nostra ci vita. Piace toccare ma spaziare poi da un argomento all'altro a caso, sì. Scusate, io nel frattempo stavo cercando delle esperienze su Airbnb. Brava, così facciamo un po' di informazioni, ma le ho trovate comunque. Guarda a Cassano Magnago, al momento trovo solo un bono dentro una cascata e sinceramente non mi sembra sbatti. Ma magari è lunga, devi camminare il 100 Amazing ore. Amazing Jungle Experience to Paradise. Hosted by Covin. Grande, certo. COVID. Sold out. COVID, ma COVID si chiama? O Covin? Post lockdown, cheaper price. Ah, ok, va bene. Quindi vabbè, tutto questo per dire, la, esatto, giungla è una situazione che ci sembra idilliaca fino a un certo punto, finché poi non ti ci trovi in mezzo. Mm-mm. E possiamo fare questa correlazione con un sacco di altre cose che avvengono nella nostra vita. Cioè, ad esempio, ieri facevamo l'esempio di quei tipi di lavori che tu dici, è un lavoro fighissimo, anch'io vorrei farlo, però non sai effettivamente lo sbatti che vive la persona per portare a termine la sua giornata lavorativa. E abbiamo detto, no, è una cosa tipo i calciatori, i musicisti, i cantanti, gli attori, ma forse il vero, cioè quello è difficile perché ci sono in mezzo anche tanti, tanti soldini poi. E quindi è difficile più relazionarsi. Però dicevamo, ad esempio... Sì, ad esempio... L'assaggiatore di cioccolato. È proprio una di quelle cose da clickbait, no? Che non so, il giorno pubblica l'articolo online dicendo la Lindt sta cercando quattro assaggiatori di cioccolato per assaggiare tutti i cioccolati del mondo per 3 anni. E tu dici, wow, grande, bam, bam, bam. In realtà forse è un incubo, raga. Sì, in realtà è assimilabile al serpente che ti mangia la mano. Sta mangiando la mano. Esatto. Vabbè. Sì, è una cosa. Sì, oppure quei tipo, anche qua, sempre dei lavori. Cercasi persona per fare il guardiano del faro in Nuova Zelanda 8 mesi. Bravo, cioè, palle. Ma raga, ma che palle. Cioè, palle. Sulla carta. Bellissimo. Figata. Sì. Poi arrivi là. Chiudi gli occhi. Sei da solo. Su un faro. Su un faro. Internet che devi fare 8 piani di scale a piotti. 8 piani di scale A chiocciola, cioè, quindi se li facessi io pure cadendo. E dopodiché tu stai A controllare cosa poi, raga? Cosa succederà mai in questo faro? Ma poi mica ha detto che ci fosse un serpente anche lì. Ma metti cioè, caso, nel senso, metti non è caso. Che... sicuramente ci saranno quei bastardi dei cosi là. I pirati. No, dei Caraibi. Seagull. I gabbiani. Gabbiani. Che ti picchiano sul vetro la mattina. Comunque ogni volta che penso a faro penso sempre a la Michela Quattro Ciocche. E lì è... è un'amica? Buongiorno. Chi è la Michela Quattro Ciocche? Dai raga, anche su questo ci aggiorniamo. Chiama mio amore Muccino. Muccino. Ah, no, Moccia. Moccia. Michela Quattro Ciocche e Raul Bova hanno fatto mica questo film in cui lui alla fine la porta su questo faro. Ma mica tipo lo sanno. 4 3 metri sopra il cielo? No, è quello è 4 metri sopra il cielo, che poi è 3. Sì, e c'è questo il terzo film di Moccia. Il primo film di Moccia è stato 3 metri sopra il cielo. Il secondo Chiamami col tuo nome. No, il secondo film è stato il sequel di 3 metri sopra il cielo e il terzo Scusa ma ti chiamo amore, dalla regia che mi dice Scusa ma ti chiamo amore, in cui la Michela Quattro Ciocche, che ma che non sappiamo chi è, Marzi, è un'attrice. Ah, okay. La Google viene portata tanto da Raul Bova su sul questo faro. Ok. Vabbè, ci sono anche un botto di experience faro comunque su Airbnb, secondo comunque me, non volevamo parlare di questo. Esatto. No. Tutto questo per dire che spesso capita anche che le relazioni possano essere delle giungle, cioè da fuori wow e poi. Ma infatti forse stiamo parlando di scam, non di Scam Italia, di scam, cioè degli scam in generale. Scam in generale. Sì, Quindi vogliamo fare questo enorme parallelismo tra la giungla, e lo scam. Cioè la giungla stessa è uno scam. Sì, essa stessa. No, forse la giungla è solo una doppia faccia, no? Sì. Hai solo la parte bella delle cose e la parte terribilmente impegnativa. Sì. Come le relazioni, oppure peraltro. È molto bella immaginarla, ma non viverla. Uh-huh. Come le relazioni. Come le relazioni. Esatto. Quindi, esatto. Quindi io a questo punto lancerei forse un amo ai nostri ascoltatori. Sì, ok. Ah, pensavo amo, un amo. Tipo... amo! Amo! Infatti, raga, ci amo fa troppo male giungla. Stare a Milano, io lo dico. Amo troppo giungla. Sì. Amo troppo noi. L'amo potrebbe essere, diteci, tipo, la cosa che vi fa più paura se pensate che domani l'uomo della vostra vita o la donna della vostra vita vi dovessi invitare ad andare a un'experience in giungla. È un mix di pensieri. Oppure questo. Diteci, questa è un'opzione. Oppure l'altra cosa che ci potete dire, qual è la vostra idea idilliaca, ma poi sbatti. Ok. Per farvi pensare, abbiamo pensato di mettere un brano di un gruppo nuovissimo sulla che cresta si è appena, dell'onda, che si è appena approcciato a questa giungla, l'ambiente la musicale. Esatto. E quindi vi lasciamo con Giungla dei Colla Zio. Sì, lo so, credo di esserlo e non sono pronto per te, forse pronto per me. Un piatto di solo sale non attacca, me l'ha detto la cicogna sul 50. Io di più di tutto ricordi una scena già vista. Davvero mi cambi la testa. E scusami se penso già alla cena di Natale, anche se è solo un anno che mangi i miei figli. Se una stella cade non ho più il mio desiderio, me l'hai fatto. E tu non chiedermi come abbia fatto, non ho smesso di dire ciò che penso e quando smetterò di farlo non andremo più d'accordo e tu sparirai come d'incanto. Mi incanta se vola via da sola, la giungla è la stessa, la lingua che parli è diversa, l'ho capito ancora. Mi fa più del bosco sopra gamba, un occhio che non mi ricambia come un basso. Bam bam con i tamburi e leoni, in agguata al tuo branco se parli male, il mio branco è vero. C'è fame, non gli arriva la tua pasta in bianco. A volte basta un cenno oppure un messaggio a non farci cadere dal punto più in alto. E cambi idea come cambi l'acqua al cane, con te mi scordo da 2 settimane. Non mi stupirei se un giorno scende e compro il pane, ma ancora voglia di viaggiare. Mi canta se vola via da sola, la giungla è la stessa, la lingua che parli è diversa. La giungla sono l'erba da tagliare, giuro sarei pronto ad una tigre da domare, ma domani ho da studiare. Che romanticismo. No, ma sono troppo bravini. Che romanticismo. Mi piacciono. Io ovviamente non sapevo che fossero. Con la zio. Con la zio. Di fuori dal comune. Cioè, sì, letteralmente di fuori dalla provincia, penso proprio, sai? Sì, sì. Fuori dal comune. Sempre fuori dal comune. Vabbè, dei regaz, come dire. E quindi saltiamo a pie pari al prossimo tema. Sì. E parlando di giungla, parlando di foreste pluviali, quindi abbiamo appunto introdotto il tema degli animali fantastici che possiamo trovare all'interno di questi fantastici mondi. Ma soprattutto le bestie. Le bestie che possiamo trovare dentro questo fantastico mondo. Perché come dicevamo prima, abbiamo tutta una sequela di animali della giungla. Marghe, mi dici un animale della giungla? La scimmia. La scimmia. Marzi, mi dici un animale della giungla? Il pappagallo. Pappagallo, io direi gorilla. E una la scimmia e il gorilla sono diversi. E quindi tutto questo per dire le bestie della nostra vita. Sei sicuro che il gorilla sta nella giungla? Certo, raga, dove deve stare il gorilla? Sì, perché Tarzan. Ma dove dorme il gorilla? Si fa tutti i lettini lui, si schiaccia tutte le cosine, e si dorme sulla liana. E Tarzan. Tarzan veniva accosato da una giungla, da una, scusate, veniva adottato dai gorilla. Veniva abusato da una. Tarzan è diventato perché sai che c'è quel complotto della Disney che sessualizza le cose, esatto. Che nasconde i peni. Mi sto immaginando quel povero piccolo Tarzan preso dai gorilla. È come la storia, avete mai visto il video quello famosissimo della scimmia che usa una rana per che la ammazza? Beh, è una roba tremenda, non ve la racconterò. Esatto. E niente, quindi parlavamo appunto di bestie. Questo è un cartone animato, non è esattamente così quello che si vedrà nella cosa. E allora, parlavamo di bestie e ci è venuto in mente il fantastico mondo del bestiario. Cioè, immaginatevi questi personaggi che andavano alla scoperta di questi luoghi sconosciuti, non mappati su nessuna mappa, proprio il loro lavoro era andare e riportare dalle cartine geografiche, quindi disegnare i confini, i mari, i laghi, le montagne, ma anche riprendere tutti quelli che erano queste novità che scoprivano all'interno di questi posti inesplorati. Quindi c'era per l'Africa, c'era per tutti quei, in quegli anni in cui l'uomo andava a scoprire tutto il globo, e venivano prodotti questi libri, che venivano poi riportati in Europa principalmente, per raccontare alle altre persone quali fossero queste scoperte. Ma il tema è che però si inventavano anche delle gran cazzate. A quanto pare, cioè, noi cercando abbiamo visto che effettivamente ci sono questi bestiari, che sono questi libri in cui magari c'era la persona che disegnava il gorilla e diceva questa cosa si chiama così e come funziona, come non funziona. Quindi una base scientifica. Sì. Cioè scientifica di osservazione. Comunque riportava un po' la realtà di quello che incontravano. E poi però spaziavano tutti sulla religione oppure sull'assoluta fantasia. Ma perché ho letto adesso? Sì. Cioè leggevo che in realtà il numero 666, no? Uh-huh. È il numero riconoscitivo delle bestie, perché appare la prima volta nel Nuovo Testamento, nel non so quale libro, in cui viene riferito a una bestia di mare e di terra che arriva sulla terra e devasta tutte cose. Forse è linkato? Può essere. Comunque loro scrivevano un sacco di cose, ma poi collegavano dei temi morali, religiosi, a questi animali, a queste cose che scoprivano, portando, cioè come se la loro scoperta fosse anche collegata a una scoperta religiosa, una scoperta morale. Il tema, cioè che usavano queste immagini tipo la lupa, ok, il drago, tipo il peccato, la sirena, sì, donna pesce che è la tentazione, tutto per passare dei concetti morali. Ma la cosa strana è che lo facevano attraverso un libro che doveva essere pseudoscientifico, sì, di osservazione, esatto, di racconto comunque, esatto. Quindi hai capito che trucchetti che facevano con questi bestiari. Bello, mi piacerebbe leggere un bestiario, però. Sì. Esatto. Ne vendono ancora? Ma secondo me qualcosa sì, lo trovi. Sì. C'è Lucio Corsi che ha fatto l'album, si chiama Il Bestiario qualcosa. Anche lui utilizza queste immagini per... Vabbè, insomma, comunque il bestiario è questo. Tra l'altro la ragazza Arianna, che abbiamo ospitato in una delle nostre puntate, del gruppo di lettura del Colibrì. Sì. Il gruppo di lettura del Colibrì si chiama Bestiario Letterario. Vedi? Tutto torna. È un circolo che si chiude, un cerchio che si chiude. Comunque, tutto questo per dire, loro rappresentavano questi animali e poi il tema appunto delle bestie e tutto quanto è rivenuto a noi in diverse, è arrivato a noi in diverse maniere. E Marzi un po' l'ha anticipato, 666, subito in mente le bestie di Satana, perché esatto, comunque veniamo da quella provincia lì. Esatto, io non vengo dalla vostra provincia. No, Marzi, vabbè, però Marzi. Questo continuo sottolineare di essere più di Milano che di Varese. Busto è più vicino a Legnano che a Varese. Lo so. Quindi accollatelo. Esatto. Anche le bestie di Satana. That's true. Praticamente c'è stato, cos'è, inizio anni 2000, sì, direi, c'è stato questo fenomeno, ma insomma in realtà noi conosciamo questo perché siamo sempre autoreferenziali. Vabbè, veniamo da fuori dal comune. Era bello grosso però questo caso qua. Questo caso è bello grosso in cui a Bustarsizio, comunque diciamo nel Bustocco, corretto. E ci sono stati dei casi di appunto satanisti che also known as bestie di Satana, che hanno anche ucciso una ragazza, sì, al Crespi, peraltro, dentro il liceo classico di Bustarsizio. Storia brutta. Esatto. Che però ci collega appunto al tema delle bestie, che spesso e volentieri quando noi diciamo bestia è una cosa negativa. Veramente brutta la bestia. Però siamo qua per sdoganare il fatto che la bestia non è necessariamente brutta. Quindi delle volte vi sentirete dire bestia ed è una cosa bestia, brutta. Ah, quella è una bestia. No. Però in realtà, cioè, io ci vedo anche del potenziale del positivo. Beh, ma secondo cosa. Voi la Bella e la Bestia, per parlare, bello, a parlare di Disney, non ha un po', cioè, sdoganato? In teoria la Bella e la Bestia, la morale, ecco, la Bella e la Bestia lo guardavo, ecco, anche io, guardavo tutti le principesse, la Bella e la Bestia un po' ha sdoganato questa cosa, cioè almeno la morale voleva essere quella di sdoganare, sì, certo, l'estetica a favore del cuore, dell'amore, sì, sì, esatto, sì. E noi facciamo, seguiamo il filone totale, dritto, e diciamo la bestia non è per forza brutta, cioè la bestia, uno può dirti anche, oh, ma grande, quello lì è una bestia, cioè tipo bestia, sul palco è una bestia, è vero, sì, un calciatore, no, quello è una bestia, non è necessariamente uno che massacra le persone, sì, è forza, cioè diciamo forza, è forza bruta, più mastodontica, più non lo so, anche imponenza, sì, che se ci pensate sono tutti aggettivi molto buoni anche per la giungla, certo, sì. Però dall'altra parte bestia si usa anche per dire di solito quanto sei tipo maleducato, volgare, anche. Perché è bestiale, quindi ha un po' di atteggiamento, ci vuole un fisico bestiale, Raff, e diceva delle cose positive, potevamo comunque metterlo, sì, effetti, è vero, ma era troppo poco giungla, sì, era un po' troppo bestia. Per cosa ci vuole un fisico bestiale? Per vivere ogni giorno al, sì, top. Okay. Ah, Raff diceva così. Ci vuole un fisico bestiale per vivere ogni giorno al top. sto googlando il testo. Non so cosa. Ma infatti, perché cosa ci voleva? Anche tra l'altro, spoiler, non è di Raff. No, è di Raff. No, sì, è di Raff. Comunque ci vuole un fisico bestiale, no, per fare un sacco di cose. Perché mi ha tirato fuori Luca Carboni, raga? Vabbè, non possiamo lasciare appesi i nostri amici. Ci vuole un fisico speciale, non speciale, bestiale, per resistere agli urti della vita. Che era esattamente quello che dicevo io. A quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Ecco. Vedi? Vedi? Beh, ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e fumare. Fumare, sai. Ma scusa, ma a quelli del CrossFit gliela mettono, è tipo incisa dentro? No, è un tatuaggio che ti danno gratis con l'iscrizione. No, ti fanno sostituire quello di Vasco che hai tatuato, esatto, con dietro questo. Qua. No, raga, c'è anche resilienza di solito. Hai ragione. Okay. Va bene, mettiamo un pezzo. Mettiamo un pezzo che introduce un po' il prossimo tema, non, sì, vi diciamo nulla, così, però vi lasciamo con un pezzo che io non conoscevo e mi avete fatto scoprire voi. A me lui piace, dirò così, senza dire chi è. È un giovane ragazzo. È un giovane ragazzo e il titolo è Giungla di Città e vi lasciamo con Adriano Celentano. Giungla di città, fatta di cemento sotto questo. sento notte da combattimento, dove senza ossigeno si sta. Chi respira come fa e chi lo sa? Giungla di città. C'è l'industria che produce troppo cancro per la civiltà. E chi fuma già ce l'ha e lo sa. Giungla di città. Vedo brutta per l'umanità. Siamo troppi sulla terra come tappi della birra. È una follia. Ma se scoppia l'altra guerra, saremo tombe nell'alta marea, perché le bombe non cambiano idea. Non si fa l'amore ma si vende come sale ogni droga nelle scuole dove sembra morta la pietà e la personalità e chi ce l'ha. Vedo brutta per l'umanità. Ho preso la resa conto che dice a me mi. Ma è una licenza poetica, si può. Vabbè. Comunque volevo dire che probabilmente con la zio non sono di fuori Milano, ma sono di Milano. Anzi, sono di tutti fuori che si sono conosciuti al Poli e poi si vedevano a Milano. Vabbè, fuori, abbastanza fuori dal comune anche loro, infatti, comunque. Abbastanza infatti. Fuori. Comunque, una giungla che sicuramente abbiamo più modo di conoscere. E qua ci dilunghiamo. Qui siamo, esatto, qui siamo forti. Experts. Qua siamo forti. Ed è la cosiddetta urban jungle. O giungla di città, come diceva Celentano. Esattamente, quindi capite anche il senso del pezzo che abbiamo portato a presentare. È tutto terribilmente circolare. No, perché urban jungle? Perché? Perché la città, soprattutto soprattutto alcuni tipi di città è piena di insidie, è piena di ostacoli, di bestie. È difficile, è intricata. È intricata, c'è sempre qualcosa ti attrae, che ma ti... nello stesso tempo ti terrorizza. Esatto, non ci sono i serpenti, ma sicuramente ci sarà qualcos'altro. Prova a dormire, prova a dormire con le mani slegate a qualche parte in città, esatto. Prova. Magari non ti digeriscono le dita, però ti trovi senza orologio. Sicuramente. Perché c'è un serpente ovunque voi andiate. Esatto. Ok. Quindi partiamo da quella che conosciamo noi come giungla, quindi Milano. Milano. Abbiamo individuato una zona di Milano che ben rappresenta questo concetto di giungla. A qualsiasi ora del giorno. Penso che su cui saremo tutti d'accordo, ad esclusione fatta del Duomo, ma che non, in questo momento non consideriamo. Esatto. Ed è Corso Buenos Aires. Sentite anche il nome che richiama. Corso Buenos Aires è totalmente una giungla. Una giungla. Tra l'altro, se posso avanzare un tema che si collega, mi è diventata ancora più una giungla da quando c'è la pista ciclabile. Ta-ta-ta-ta! Perché qua adesso si scontrano le varie bestie e diritti di diverse bestie. Esatto, perché la giungla alla fine vince la sopravvivenza, il più forte, no? Il più forte o la più forte ce l'ha vinta contro tutti e tutto. E in realtà io avevo letto da qualche parte, tipo in qualche gruppo Facebook, che mi aveva fatto mega ridere che Corso Buenos Aires era diventato tipo Bangalore. Allora sì, questa cosa mi aveva fatto ridere e in effetti per chi non per essere razzista sempre, ma per l'immagine di l'immaginario, ci mancano esatto, i tuk-tuk. Esatto. E poi ma che tra l'altro ci ma sono. Ci sarà secondo me non proprio il tuk tuk, ma no, ci sono ogni tanto ci sono quei mezzi che portano sì, i turisti, esatto, che poi peraltro, andranno a vedere in Buenos Aires i turisti. Scusatemi, ma non troppo tempo fa vi assicuro che ho visto uno di questi simili tuk tuk andare letteralmente a fuoco. Terribile. Mentre andava? Sì, terribile. No, no. Ah. Vedi, questa città è una giungla. Cioè, non ne scappi. Buenos Aires è una giungla 24 ore su 24, perché tu hai a una certa ora sorge il sole, ok? Inizia il traffico. Sì. Lavoro. Commercianti, persone che vanno al lavoro. Le biciclette che adesso hanno questo ritirare nuovo spazio. Ritirare la spazzatura. Una guerra. Tutti quelli che vogliono svoltare a destra che investono ogni giorno un paio di ciclisti. Ciclisti che si arrabbiano fortissimo e picchiano sulle macchine. Motociclisti che cercano di parcheggiare sui ciclisti. Esatto. Macchine parcheggiate nella pista ciclabile, gente che li scavalca e si prendono gli insulti di tutti i tipi. Macchine parcheggiate nei parcheggi, ma dato che non si vedono, le persone si incazzano perché pensano che sia la pista ciclabile. In mezzo alla o strada, che siano in coda. O che siano in coda. Esatto, anche quello succede. Vari cambiamenti della viabilità dovuti appunto alla pista ciclabile, che tra l'altro noi siamo completamente d'accordo con mega supporti. Il grande discorso di quella sera in questo caso era ma mettere un divisoire, diciamo un divisoire. Come dire una paratia di cemento, sì. Potrebbe aiutare. Non mi ricordo con chi ne ho parlato ultimamente, ma dicono che sia pericoloso. Molto pericoloso, no? Sì. Ma a parte pericoloso, secondo me sono un botto di esordi. Sì. Secondo me il comune di Milano dice ma magari la metto solo nel primo pezzettino, dopodiché questo. Però scusate, la mia invece idea geniale che ho avuto stasera della vernice giù per terra catarifrangente. Ma dovrebbero già essere un po' catarifrangenti. Dovrebbero essere le strisce, sì. Sì, in teoria sì. Zero, raga. Zero. Sì. Tra l'altro voi lo sapete che un comune può scegliere tre colori delle strisce? Giallo, blu e... No. No, delle strisce pedonali intendo, non dei parcheggi, scusate. E possono scegliere di farli bianche, quindi senza, bianche senza contorno, bianche col contorno rosso o bianche col contorno verde, che si avvicina orridamente al verde Lega. E il mio comune, cioè Gazzata Schianno, tra le tre opzioni ha scelto il verde Lega, perché i sindaci erano della Lega. Ah, ma tu dici il bordo proprio della striscia? È vero. Non l'hai mai visto? Sì, la bordatura rossa grossa. Ma, esatto, non esistono da altra parte nel mondo se sono non a Gazzata Schianno per un anno, perché poi quando è finita la Lega sono state scancellate. Ci sta. E quindi questo qua, Buenos Aires, tutto il giorno così fino a tipo alle 8, 9, 10 di sera anche, poi inizia invece un po' il traffico della movida e quindi non è tanto Buenos Aires ma tutte le vie parallele. Però anche Buenos Aires. E poi Buenos Aires è totalmente un posto di passaggio a qualsiasi ora del giorno e della notte. Sì. Ma infatti vi volevo chiedere, che porta al centro della giungla? Ila, no? Esatto. Laddove che sarebbe la... cosa? Nolo o il Duomo? No, raga, Piazzale Loreto. Piazzale Loreto Nolo, per definizione. Ah. No, no, proprio Piazzale Loreto per definizione una cazzo di giungla. Vero? Anche in... fin dalla sua, esatto, quando arrivi a Piazzale Loreto devi fare un respiro e dire ok, ora cosa devo fare per uscirne dove vivo? Peraltro sei a piedi, che tu sei in bici, che tu sei in macchina, perché sei a piedi. Anche Mussolini ha detto la stessa cosa. Cosa cazzo devo fare per uscirne vivo? E non è uscito. Tra l'altro, esatto. No, però vi volevo chiedere, dentro questa, per tutti coloro che non sono di Milano, che ci stanno ascoltando, questa parte è totalmente... Sì. Ma tanto sappiamo che sono tutti di Milano quelli che ci stanno ascoltando. Esatto, peraltro è anche un po' il nostro... cioè, topic, in fondo. Mm-hmm. Quindi non stiamo, non ci giustificheremo, non ok? Non ci giustificheremo. Però all'interno di Piazzale Loreto c'è una pasticceria. Ma dove? Allora, attenzione, spalle a Viale Monza. Ora chiudete gli occhi. Esatto, chiudete gli occhi. Catapultatevi in Piazzale Loreto, quindi bordello. State uscendo da Viale Monza e state, andate dritto a dritto per imboccare Buenos Aires. Ma sono una macchina o sono un pedone? Sei una macchina o una bici. Ok. Quindi ti infili lì in mezzo. Sì, sì. A un certo punto a destra avrai il semaforo. No, arriva il, il primo semaforo. Sì. Vai per andare al secondo, sì. A destra avrai per andare in Viale Brianza. Sì. Invece non vai lì, vai no. Proprio davanti, ma un po' sulla lì, in mezzo alla cazzo di rotonda, c'è una pasticceria. Ma veramente, raga? No, l'ho vista, sì, l'ho vista più volte. Ma non è che l'hai sognata? Andremo a controllare. Anzi, se, in mezzo, se nel centro della giungla Loreto c'è una pasticceria. Esatto. Amici, se voi siete che lì... Che tra l'altro la trovo molto romantica questa cosa. Ma non ti puoi fermare, cioè non puoi andare infatti, mai. Esatto, ma è un'utopia? Me... Sì. È una visione. Ma infatti, Wes Anderson. Ora che ci penso, bellissimo. È un Inception. Comunque tutto quello che c'è, spero non la pasticceria, qualora esista veramente, verrà distrutto sì, a favore di un progetto di speculazione immobiliare. Fantastico. Ma infatti non ho mai capito cosa diventerà. È tutta una roba matta, passerelle, verde, sotto, sopra. Cioè, quindi una giungla ordinata. Negozi una della Nike. Una giungla fintamente ordinata. Palazzi con appartamenti da 8K al metro quadro, 9K al metro. Tutto quadro. Questo tutto in Piazzale in Piazza Loreto. Vabbè, perché in effetti Piazzale Loreto non sembra ma enorme. No, beh, sì, enorme, sì. Okay. Due torri, enorme due come lo sconforto che ti viene ad affrontarla. Esatto, parliamo di sconforto. Esatto, tutto quello che cioè la città si dice anche una giungla quando ti viene questa sensazione di oddio troppo, no? Uh-huh. E storicamente storicamente da capire. Storicamente. Vabbè, però New York è palesemente una città in cui la gente dice sembra di essere al centro del mondo e questa sensazione di sconforto. Sconforto, cioè perché c'è troppa roba, troppe persone, troppi molto palazzi, grande, troppe luci, tutto. Troppe rumori. Allora, io quando ci sono stata non ho avuto questa sensazione. Non ho avuto questa sensazione di che tu sei cittadina del mondo, Marzi. Tu sì? No, cioè non di insomma sopraffazione e sconforto, ma mi sono sentita decisamente molto piccola. Ecco, no, io non ho avuto questa sensazione. Ho solo avuto paura a salire a dormire tipo al 18° piano. Eh no, esatto, vabbè, quello certo. Ansia da questi ascensori che fanno dei tratti lunghissimi mi sì, creano un'ansia. Perché se c'è un incendio sei fottuto. Vabbè. Esatto, quindi che cioè, sbatti la giungla che del 2021. Sbatti la giungla del 2021. Tra l'altro, scusate, ma quel tema animali a New York, non so perché ho questo flash di mille film in cui a un certo punto ci sono leoni, i coccodrilli, c'è cioè la storia dei coccodrilli I nelle fogne, i gorillaz. Che ci saranno stati sicuramente. Sì, sì, sì, no, c'è la storia dei coccodrilli a New York, delle fogne, quindi sì, forse New York è la città per eccellenza, che la città, diciamo, moderna del mondo occidentale considerata. C'era anche Alicia Keys, no, che cantava, era Alicia Keys? Sì, sì. Sì. In Empire State Infatti of Mind. Infatti non ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo, perché però, l'abbiamo segata? L'avevamo scelta? No, non l'abbiamo mai, l'abbiamo solo detto, ah, ci sarebbe anche Alicia ma Keys, non l'abbiamo ma non l'abbiamo messa. Mai messa. Okay, okay. E quindi questa qua è... Altra maniera invece del disagio della città, tutti quei paesi che ci richiamano il caos della città in via di sviluppo. Noi abbiamo segnato appunto Bangalore. Ah, sì. Ecco, io quel tipo di caos ancora non sono riuscita a sperimentarlo. Io ho vissuto l'ho vissuta in Cina, comunque in Asia, ed effettivamente è bella complicata. Ad esempio Hong Kong è una cosa pazzesca perché tu hai palazzoni, cristallo, tutto quanto, e poi ci sono le piante con le liane in mezzo alla città, quindi è proprio una vera giungla, una vera giungla urbana addomesticata, più o meno addomesticata, sì, con i pappagalli e le scimmie che corrono in giro, magari l'India appunto con le scimmiette che vengono lì. L'India mi sa che fanno... hardcore, raga, non so se uno di noi è mai stato in India, io no. Ma dacci due dritte su Bangalore, se ci stai ascoltando, che tu ci sei stata e saprai sicuramente come... Vedete, non solo, questo è un grande esempio di come non solo noi vi diamo importanza, ma vi chiamiamo anche proattivamente per nome durante questo programma, che ormai direi che è alla sua seconda edizione, quindi di una fama mondiale e assolutamente riconosciuta, stellare, assolutamente. Quindi ultimo tema per quanto riguarda la Urban Jungle è tutte quelle pagine Instagram che sono nate nel tempo per... Una, no? Cioè Welcome to Favelas, ma poi ce ne sono nate N altre correlate, tipo Welcome to Favelas, che riprendono i disagi della vita, della vita urbana, quindi le risse, esatto, sì, il disagio, la giungla più cruda, diciamo. Esatto, le macchine che prendono fuoco, la tossicodipendenza. Un'altra di questo genere che non è Welcome to Favelas, ma si avvicina in qualche modo, è tipo qualcosa sulla Russia, non so se l'avete presente, che postano questi stereotipi russi però strecciatissimi al disagio, non so come dire. Okay. Poi recupereremo il link e ve lo faremo. Esatto, la fonte ve lo faremo vedere, ma comunque Welcome to Favelas, pagina top, in cui principalmente loro fanno vedere cinghiali a Roma e incidenti paradossali. Esatto, esatto. Cartugomesse parcheggiate su un muro. Stavo cercando news sul baracchio, sulla pasticceria di Piazza della Loreto, non lo trovo, però io so che esiste, quindi vi manderemo. Quindi sappiamo che è un pensiero di Marzia. Quindi ragazzi, esiste, vi manderemo più informazioni. Se qualcuno degli ascoltatori mi dà tratto su questo. Oppure se qualcuno per caso ci sta ascoltando passeggiando in Loreto, qualora volesse, può comunque attraversare la strada più o meno al secondo semaforo senza farsi ammazzare. Al primo, potrebbe, secondo me, al primo venendo da Buenos Aires. Ok, al primo venendo da Buenos Aires potrebbe anche mandarci una foto. La Madda dice... Bangalore caos, ma mai quanto Calcutta. Non il cantante, immagino, proprio la città. Che salutiamo Calcutta, essendo il nostro come si dice, songwriter per la nostra, nostra sigla. Un giorno ci querelerà. E dice tutto bellissimo comunque. Quindi sulle parole della Madda ringraziamo appunto i nostri ascoltatori e vi lasciamo con un pezzo che io non conosco. Lo sapete tutti, l'abbiamo sentito ieri sera. Ah, ok. E ora vi vogliamo, mi immagino così, state facendo i vostri lavoretti in casa, chi ha mangiato, chi sta cucinando, chi sta sistemando. Adesso lasciate tutto quello che state facendo, giovani, meno giovani, tutti quanti. Alzatevi, ti vedo che hai ancora quel cucchiaio in mano, alzatevi, pausalo. Alzatevi in piedi e preparatevi a ballare come dei matti saltellando, perché direttamente dal film Ali G in the House vi lasciamo con Incredible di General Levy. Wicked, wicked. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is massive, wicked, wicked. Incredible. But big up, all the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will be telling murderer. It goes, I am the incredible general. Sensational, where they call me. Yo, Maddie will let them up in them like a windmill. You talk for them, but tell them how we got the skill. Dance girl nice and let's win them on the bill. And the girls see you with vices like them dreams get fulfilled. Pass out with them in the pass out with them in the cold like with them in the chill. I go winner, settle winner, over the hill. Who the one comes to see, I don't know say sick, don't know say ill. Just take on the MD, to the best, I'll go right your will. Booyaka, we no take back no talk. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr. Lee, keep on the mind, the gentleman, free the general. Keep on back, in the mouth style. Wicked, original. In the middle of the back, in the middle of skin. Me no take a partial. In the middle of the best, and I'm DJ to them funeral. General Lee, me no middle of the back. I'm a friend. Talk about the commandant, I'm new. All for the man, I'm not. To the pinnacle. If you look at DJ, chat, then say, say, tango. FBSL, come and get them. Critical, critical, critical. So, booyaka, booyaka, when they magnatat. Buiaca, buiaca. Adesso andate sul nostro canale Instagram, Fuori dal Comune Stava Preso. Marzia a breve vi pubblicherà una diapositiva presa direttamente da Google Maps con le coordinate geografiche per vedere questa famosa pasticceria nella giungla di Milano, a.k.a. anzi nel cuore della giungla di Milano, a.k.a. Piazzale Loreto. Pare chiusa, però vi prego, per piacere ascoltatori, aiutatemi a trovare una risposta. Aiutatemi a trovare la cioè, da dove, chiave, da dove viene la chiave, wicked, wicked. La chiave di lettura di questa pasticceria. Wicked, wicked. Beh, diciamo che avete ballato? Avete ballato a casa? Boh, spero di sì. Spero di sì. Pezzo pazzesco. Io lo adoro tantissimo. Mi gasa sempre a manetta. A palla. A palla. E così scivoliamo verso una delle nostre rubriche più celebri. Più celeri anche, no scherzo, più celebri, che è le altre notizie della settimana. Avevamo un'altra sezione. Ops, ho sbagliato, scusatemi. Ci voleremo dopo, vi abbiamo anticipato, quindi scusatemi. No, allora, invece il tema che affronteremo assolutamente male, come al solito, ma che dovrebbe tema essere molto sostenibilità. Importante. Sostenibilità. Esatto. Anche fuori dal comune ha il suo angolo green. Assolutamente. Ed è salvaguardare la giungla. Perché salvaguardare la giungla? Oggi abbiamo parlato della giungla, no? Posto bellissimo, posto infausto, posto attraente, posto repellente, che comunque, volenti o nolenti, porta del bene a tutti quanti noi. Cara la giungla. Che bella intro. Hai visto? Bella. Bello, sì, soprattutto perché è casa di wildness, per definizione, mm-hmm. E quindi casa di un ambiente non ordinato, un ecosistema di... appunto disordinato, ma che si in qualche utile modo ha trovato un equilibrio, che ha un equilibrio che forse è l'equilibrio primario di questo di questa terra, sì. Sì. Che è come la natura ci vuole. Mamma mia, che bello, Marzi. Esatto, come la natura ci vuole. Invece che l'uomo ha negli anni progressivamente, anche forse giustamente, nel senso che, cioè giustamente, parzialmente ci abbiamo guadagnato, nel senso che in questo nuovo equilibrio non la vince più Il più forte, ma la vince altre cose, ricco. Il più ricco probabilmente la al momento, ma per i nostri figli noi speriamo che sia diverso. Invece nella giungla vince il più forte, però forse anche chi ha lo spirito di sopravvivenza maggiore. Sì. Sì. Tra l'altro questo parallelismo vale sia per la giungla, ma anche per la città. Sì, esatto, cioè, sì, cioè, sì, pensa sì. Tipo tutta la speculazione edilizia, no? Cioè lasciamo un po' di disordine da qualche parte, perché comunque le cose funzionano anche nel disordine o nell'ordine che si sono si sono si è, definite, che si è creato, che si è creato. Sì. E, però bisogna in qualche modo salvaguardare, certo, l'ecosistema, perché è importante per non solo per come concept, diciamo, come concetto, ma è importante per il suo ruolo all'interno dell'ecosistema mondo, proprio perché, okay, ci fa respirare, tant'è i polmoni, che l'Amazzonia, esatto, è detta i polmoni della terra, no? Brava, il polmone della terra. Tutto questo per dire che noi siamo cresciuti col WWF piantato sulla fronte, no? Sì, cioè negli anni 90 il WWF ci aveva, sì, preso tutta la retorica. Io avevo questo cazzo di panda ovunque, sì, perché sì, era il panda all'epoca animale simbolo degli animali in via di estinzione e simbolo appunto del WWF. Ma devo dire che ieri, quando abbiamo preparato la puntata, sì, tempo fa, tanto guardo come stanno i panda adesso. Stavamo cercando delle panda stanno sempre uguale. Stavamo cercando delle associazioni che si occupassero di salvaguardia della natura, eccetera. A nessuno è venuto in mente il WWF. Sì, a nessuno. Quindi ha fallito entrare nelle nostre teste. E soprattutto non è questione solo dei panda, belli panda, carini panda, stanno principalmente negli zoo e nelle aree appunto che di riforestazione o di ripopolazione di questi panda, ma ci sono un sacco di altri animali nelle giungle varie. Da essere salvati, quindi non, sì, pensiamo solo al panda tanto carino, ma pensiamo a qualsiasi tipo di animale che può essere salvato e ci può venire in mente. Ci sono la Marzia e la Marga che stanno tipo scrollando una, sì, pagina di non so cosa, no, del WWF. Ah, ok. Stavo vedendo perché avevano scelto il panda come simbolo e sicuramente confermo quanto detto da Marzia poco fa, cioè è simbolo per l'eccellenza degli animali in via di estinzione. E di oltre 50 anni di impegno per la conservazione della specie del WWF nel mondo. Il panda gigante fu scoperto solo nel 1869 dal gesuita naturalista francese Armand David, da cui deriva il suo nome iniziale di orso di padre David. Chissà Armand quando si è trovato per la prima volta esatto, in panda. Prima del 1869 il WWF che logo aveva. Cosa faceva? Esatto. Raga, non credo quando è nato il WWF. Nel 1869. Sto scherzando comunque. Era una battuta. Cioè i bambini di tutto il mondo a quali animali pensavano quando dovevano salvarli? Comunque credo che il WWF sia un ente istituzionale come il World Economic Forum. Forum, sì, solo che è il WWF, sì, WWF senza economiche, senza forum. Vabbè, e niente, soprattutto quindi aveva, come dire, aperto le gabbie, se si può dire, a tutti i tipini assoldati a romperti le palle per far la donazione, no? Brava, forse per quello, però c'era anche il grande trend di da grande cosa vuoi fare, voglio andare col WWF a salvare le tartarughe. Sì. E tartarughe? Anche tartarughe di mare. Vabbè, anche la tartaruga, sì, è un altro classico. Un altro animale che, raga, non pensiamo mai che però può essere salvato? Allora, so che ultimamente si era parlato a Milano molto della salvaguardia delle nutrie. Guarda, però su questo forse stendiamo un velo pietoso, no? No, non lo so, la nutria non credo che abbia bisogno di essere salvaguardata, perché da quello che so io la è nutria è tutto il resto che deve essere salvaguardata. No, la nutria non è un animale autoctono della Padania, ma è stato importato da qualcuno che per farci le pellicce. E poi sono liberati e via. Mi raccontavano l'altro giorno a Roncade che anni fa ti davano 5 euro ogni nutria morta che portavi in comune. Bello. Vabbè, comunque, detto questo, siamo anche contro la caccia, esatto, noi, assolutamente, sempre contro la caccia. Nella giungla cosa c'è da salvaguardare? Gli animali, sicuramente. Sì. Altra cosa interessantissima della giungla, che ogni anno e mezzo abbiamo la notizia lampo che viene fuori, è scoperta popolazione indigena che non aveva mai visto l'uomo, scoperta cosa, e vedi il videino dall'alto con questi tipi con le cerbottane o delle cose mega così. Come si chiamano i piercing quelli che, cioè gli orecchini quelli con il cerchio, non i cerchi dilatatori, dilatatori. Sì, quelli sono già però cose che abbiamo magari già visto di più, però sì, ce li immaginiamo così con delle braghe di pelle e loro con delle cerbottane che sparano al cameraman. Esatto. Quindi anche queste persone qua vogliono stare tranquilli nella giungla, lasciamoli, esatto, là, salvaguardiamoli e manteniamoli tranquilli nella loro beatitudine. Esatto. Ho aperto un link a caso di questo genere e cita: Brasile, tribù sconosciuta scoperta grazie a un drone nella foresta amazzonica. Ma questi qua non volevano neanche essere scoperti, probabilmente. Cioè, stavano così bene tranquilli. Ma senza... credo che in un'altra nostra puntata, quella sulle isole, abbiamo fatto una puntata sulle isole. Era sul mare, forse. Sì. Secondo me non abbiamo fatto né una puntata sul mare, su Genova. Non credo che sia Liguria, questa puntata. Sulla Liguria. Non credo. Vabbè, comunque, in un'altra puntata. In un'altra puntata non abbiamo parlato di quella isola, di quella tribù su questa isola che per era mille anni... Era un'altra notizia del giorno, secondo me. Ah, brava. Per mille anni hanno provato a approcciare questo... Ah, perché era l'unica posto del mondo senza Covid. Vero. Che hanno provato a approcciare mille volte, ma la gente c'è morta sopra questa isola perché ovviamente non veniva riconosciuta come autoctona, appunto. Esatto. Non veniva riconosciuta dalla tribù. Altra grande cosa da mantenere... calma, intatta, è la fantastichevolezza delle piante, della natura e tutto questo. Proprio oggi stavo leggendo che noi ci immaginiamo appunto ripiantare la foresta amazzonica, salvaguardare il Sahara, aiutare la foresta pluviale dell'India, non so se sto dicendo le cose a caso, però molto qua vicino a Milano hanno fatto un esperimento. Sempre perché non parliamo sempre esatto. delle stesse luoghi. No, per non dire che non è così lontano da noi come pensiero, a Giussago, che come potete sentire dalla terminazione di questa parola è ovviamente in zona Milano, Pavia. Monzese, esatto. Sì. E praticamente cosa hanno fatto? In 25 anni hanno ricreato l'ecosistema che si pensa che fosse quell'ecosistema lì mille anni fa. Okay. Quindi loro hanno tolto tutte le colture intensive. Okay. E tra l'altro la cosa interessante è che il terreno era il terreno su cui c'erano delle fabbriche della famiglia, ora non mi ricordo, tipo Nappi, Nardi, qualcosa del genere, che sono stati gli inventori negli anni 50-60, i primi inventori della plastica nel mondo. Ah, e quindi questo terreno qua è stato ripopolato in 25 anni. Ed è al momento non ci si può nemmeno entrare, si possono fare solo delle visite organizzate per andare in questo bellissimo posto a Giussago. E hanno ricreato, tipo, c'è uccelli che non si vedevano un sacco di tempo, animali che non si vedevano un sacco di tempo. Che bello! Tutta una foresta nuova, nel senso che è nuova per noi, ma era la stessa foresta, la stessa tipo di vegetazione che c'era fino a mille anni fa. Ed bellissimo, è un posto spettacolare. Bellissimo. Wow, questa è una bellissima storia da fuori dal comune. Sì. E quindi andate a Giussago, informatevi, vedete un po' cosa vi raccontano a riguardo, perché pare che sia proprio una bel bellissima posto. Un bel posto pieno di bestie. Le bestie. La bestia. Un museo cielo aperto. Raga, noi abbiamo fatto la città della bestia. Poi mettiamo un pezzo. Qual è la città della bestia? La città della bestia è il concorso dei becchi. È il concorso dei becchi. Ah, una bella bestia. Perché quindi il becco è l'animale è la bestia più bella. Dopo la donna. E su questo, yeah, questo vi lasciamo con un pezzo che è stato parte della mia scoperta musicale italiana e della mia formazione musicale. Mm-hmm. E quindi pensa a te che uno adesso immagina i Beatles. Io mi sto immaginando tipo sì, un artista di nicchia o tipo Johnny Clash, una roba così. E invece i nostri Johnny Clash, in cui negli anni 2000 facevano faville proprio con citazioni tipo il becco è una bella bestia, dopo la donna. Dopo la donna. E quindi, lo squercio. E quindi vi lasciamo con Benvenuti nella giungla della Dogo Gang. Questo schifo di città è come una giungla, fra. E ci sono serpenti, volpi e leoni, sì. E se serve devi essere tutti e tre, sì. Keep it terror, rocce. Togo gang for ever. Tieni la testa bassa, sei prima in linea, io cecchino. Tengo traccia sotto tiro come col cannino. Caricatori vuoti, chiami col walkie talkie. Io ho più rime dei colpi sparati all'ocli. Abituata alle perquisite alle 4 di notte. Ma se quest'altro un Mercedes, 4 le copie. Un tappino per le spese, 4 per le quote. Poi faccio al muro, cerchi l'oro, ma ho le tasche vuote. Fanculo da loco, vivo nel blocco da quando sono nato. E ho rinunciato all'infanzia per avere un futuro. Siete gangster senza rivoltella. cella. So di uomini di ferro arrugginiti in cella e villimoni in cerca di dinero. Sento voci come neonazi, il coro del clero. E me ne foto della fama, fame d'altro. Popolare prima che sul palco. Tra gli animali, criminali, piogge torrenziali. Sono cresciuto nella giungla, giungla. Tra gli insegnati, tra i selvaggi, viaggi psiconauti. Sopravvivo nella giungla, giungla. Tra cobra e droga, roba e coca, botte qui te. Sono strafatti e malfidati questi scimpanzé. Vogliono prendersi quello che ti appartiene a me. Benvenuti nella giungla, giungla. Sei tu che sei un minchione, non io che faccio il gangsta. Seleziona 666, numero della bestia. Dogo ganga sul mix, è un T-Rex. Tu non fai brutto e ti pippi il Vixinex. E nel 2000 Gwen Pearce. Come negli 80 Bronson, Don Johnson e Johnson Righeira. Nella giungla si sclera e siccome non prego mi si svita la testa come collego. Patto col diavolo, mi dà barelle e modelle. Ma mi fa camminare insetti sotto la pelle. Rimo da quando andava il bomber dentro arancione. Vedo che sul sito fai il bomber ma sei un bambascione. Metto pesi al bilancino, pesi al bilanciere. Tu non sei peso e bruci piano dentro al mio bracere. Ci sono sbirri, orango, setti infami. Merce di scambio, distesa pura come mango. Tra gli animali, criminali, piogge torrenziali. Sono cresciuto nella giungla, giungla. Tra gli insegnati, tra i selvaggi, viaggi psiconauti. Sopravvivo nella giungla, giungla. Tra cobra e droga, roba e coca, botte con te. Sono strafatti e malfidati questi scimpanzé. Vogliono prendersi quello che ti appartiene a me. Benvenuti nella giungla, giungla. Se giungla io sono un leone, zio. Se tutti hanno da dire ma nessuno dice come a Corleone, zio. Sempre a casa come dubbio, in strada che fate i lupi. Poi mi date la mano e sembrate gruppi. Si fra, farò come un cantone, sarò sintetico. Ho in testa la corona soltanto perché lo merito. Ho crafty flow, ogni 16 è un classico. E bevo lo champagne però partendo dall'astrico. Notevole, sì. I miei gioielli non hanno l'anello debole. Scrivo solamente la colpa, mai chi è il colpevole. Dubbio, e con i buoni e coi cattivi. Rispondi quando scrivi e poi ti accorgi che hai sbagliato i congiuntivi. E non ho tempo per dissing nelle canzoni. Io li guardo in faccia, sono solo gli infami che fanno i nuovi. È una gazzella, una scimmia, un gorilla, un rapace. È la legge della giungla, amen, andate in pace. Oh! Tra gli animali, criminali, piogge torrenziali. Sono cresciuto nella giungla, giungla. Tra gli insegnati, tra i selvaggi, viaggi psiconauti. Sopravvivo nella giungla, giungla. Tra cobra e droga, roba e coca, botte con te. Sono strafatti e malfidati questi scimpanzé. Vogliono prendersi quello che ti appartiene a me. Benvenuti nella giungla, giungla. Beh, che pezzo. Mamma mia, che vibe. Vibes. Che vibes. Bene, e quindi i Club Dogo, la Dogo Gang nello specifico, scusate, ci aprono a appunto l'ultima rubrica della giornata. Quella che prima poi avevamo spoilerato, esatto, ma questo è giunto il momento. È finalmente giunto il momento ed è le altre notizie della settimana, ossia quella rubrica che vi aiuta a snocciolare, ma soprattutto conoscere, poi snocciolare con noi e anche in privato, delle notizie semi importanti che però possono farvi fare un po' colpo con gli amici. Di cui Marzia ha una bellissima sigla. Le altre notizie della settimana. Sempre meglio la sigla. Sempre meglio. No, ma in realtà le altre notizie della settimana ti possono aiutare, esatto. Gli use case per le notizie della settimana sono come utilizzarle. Uno, io sono una persona terribile il cui lavoro mi ha colonizzato completamente tutto quello che faccio. Quindi tutto quello che faccio è terribilmente colonizzato dal lavoro che faccio, tra cui il modo in cui parlo. Quindi vabbè. Questa era una piccola parentesi per giustificarsi. Questo potrebbe essere un topic, esatto, sì. Un topic di conversazione quando incontrate le persone, perché potrebbe essere, dicevamo, incontro le persone che non conosco, da cui mi appioppano, tipo sei al bar, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi, sei al bar con il tuo amico o la tua amica. Ok. Arriva un amico o un'amica della tua amica. Ciao, ma tua amica chiamano al telefono, lei risponde o lui risponde e tu che sei smollato con questo sconosciuto o sconosciuta. Sono che sconosciuta. Hai già fatto le domande tipo quanti anni hai, dove lavori, Ok. Quelle robe lì l'hai già smarcate. E quindi a quel punto dici, le altre notizie della settimana. Esatto, quindi a quel punto devi intavolare qualcosa, a meno che tu non voglia parlare del tempo, ovviamente. Esatto, e tutto inizia così. Oh, yeah. Ma l'hai sentito che... Oh, ma sai che prima ho letto che... se no, l'altra cosa è ovviamente se incontri qualcuno lì, sei lì sempre al bar, stai per ordinare da bere, a fianco a te c'è un bono, una buona, okay. E allora dici... Okay, ecco, questo non, oh, ma... non so se... Oh, ma l'hai sentito che inizierei, io sceglierei questa. Se dovessi, se fossi a un bar con un bono... Tu scegli lo use case, questo. No, sì, ma scelgo questa notizia, tra quelle. Vai. Che sta per dare. Che è... oh, ma hai sentito che chiudono studio aperte TG4? Chiudono studio aperto TG4, non lo sapevamo, ce l'ha detto la nostra informazione di la nostra fonte di informazione preferita, ovvero Trash Italiano. Esatto. Che tra l'altro chiedeva quella gag, ma chi mai, allora chi ci dirà di quanto stare a casa fa caldo fuori, quando fa molto caldo. Però ovviamente questo in realtà è brutto, cioè comunque chiudere, certo, un servizio di informazione, o esatto, un disservizio, ma comunque insomma due testate giornalistiche non le, quando si chiudono le testate giornalistiche non è mai sempre bello. Non è mai bello. Comunque canalizzano tutto su TG.com, a quanto pare, leggevo oggi, canalizzano tutto su TG.com e non ci saranno più i TG verticali dei singoli canali. Poverini, quindi ci saranno anche delle persone disoccupate. Taglio grosso, si dice. Altra grande notizia. Questa non vi cioè capite veramente che avete davanti per usarla, perché potrebbe essere, cioè se tipo è un'amica di un'amica, diciamo una collega, sì, nuova, dovete avere delle vibe un po' di persona che non vi giudicherà. E comunque, oh, ma lo sai, dire, oh, ma lo sai che Paris Hilton si è sposata? Si è sposata Paris Hilton, ragazzi. Si è sposata Paris Hilton, questa cosa è pazzesca. Tra l'altro oggi leggevo un meme che diceva che Paris Hilton si è sposata, Lindsay Lohan ha riniziato a fare l'attrice, Britney finalmente sta libera bene. Il 2007 finalmente è stato, l'abbiamo superata. Il disagio del 2007 ce l'hanno, esatto, fatto. Top. Paris Hilton si è sposata, non abbiamo neanche veramente capito con chi, con uno che comunque nelle sue stories del giorno del matrimonio non compariva, non era mai presente, esatto. Infatti è un monopolio Paris, esatto. E tutte le storie, Paris si è sparata 90 stories il giorno del suo matrimonio, di cui metà l'ha fatta. Anzi, io adesso non vorrei dire cavolate perché non ho seguito passo passo. Vabbè, dice comunque quello ha che fatto sai. Vari cambi di abito. Outfit. Esatto, il primo, o comunque uno di questi, uno era tradizionale, abito bianco, e l'altro invece era quello della festa. Barbie. Tutto proprio tema Barbie. Barbie con velo. Sì, tutto Barbie tema con Barbie. Velo, quindi classic Paris. E via, si vola. Con Diplo che faceva il DJ, quindi... E comunque. Lei tra l'altro, raga, ha fatto le stories il giorno del suo matrimonio, lei tutta Barbie con un filtro piallatura. Sì, amo. Sì, sì, sì, amo. Sì, sì. Ho mandato una mia amica la stories, lei mi ha mandato una sua foto con lo stesso era uguale filtro a Paris. Ed era uguale a Paris. Era il filtro Paris. Quindi anche Paris si è sposata, Paris. Bene. Prossima Fede, notizia, come se siete stati attenti negli ultimi giorni a vita milanese, sapete... Purtroppo che ci abbandona un altro componente, diciamo, della sfida dell'occupazione, della resistenza cittadina, che è Macao. Sì, purtroppo questo progetto nato ormai qualche anno fa a Milano ci lascia, almeno lascia la sua sede storica di Viale Molise. Chiude momentaneamente, diciamo. Macao è stato per noi tutti, insomma, di questa generazione, un posto dove si facevano cose molto interessanti di notte e di giorno. Durante il lockdown era, diciamo, tra la rete dei centri sociali, tra cui ZAM, dove noi siamo, che ha aiutato molto il quartiere, si è preso carico di un pezzo di welfare sociale che non era coperto da nessuno, esatto, non riuscivano a coprire, e comunque però Macao è conosciuto, diciamo, principalmente per il suo ruolo culturale di avanguardia, per aver ospitato artisti da ogni dove, per essere diventato un po', soprattutto negli ultimi anni, un posto di riferimento per chi voleva fare divertirsi in modo novità. Esatto, in modo non da Hollywood o da Lollapalooza. Esatto. Quindi Macao lascia un buco nelle nostre vite, soprattutto nelle nostre serate, devo dire. Sì, dobbiamo dirlo. Esatto. Perché abbiamo scoperto io e Marzi che se vuoi fare serata a Milano ora, o spendi un botto di soldi o ti metti in lista. O ti inculi. O ti inculi. Bello. E... altra cosa che chiude. Sì. È la carriera di Valentino Rossi. Chiusa quella della moto. Perlomeno sì, della, della moto. Perché io ho snicciato che teoricamente vuole continuare a correre. In ma bisognerà, bisognerà vedere. Comunque, ma è simpatico Valentino voi? A me, se, per me è stato. Per me, sì, sì, per me è sempre stato. Cioè, io mi ricordo grandi ricordi di me e mio papà sul divano a guardare la MotoGP. E eravamo proprio molto casati. Cioè, lui, secondo me, ha avuto un ruolo per quanto riguarda lo sport della MotoGP che hanno avuto pochissimi sportivi in determinati sport, che, di avvicinare... Di portarla nella televisione italiana. Di portarla nella televisione, ma di avvicinare tantissime persone a quella tipologia di sport. Cioè, abbiamo avuto, per dire, Schumacher, Michael Jordan, Valentino Rossi per quanto riguarda la motocicletta. Sono un po' quelle, quegli unicum sportivi e anche poi culturali in una certa maniera, che ci capita raramente di vedere o di rivedere nella, nella storia in generale di quello che è la cultura pop. Beh, io scioccata dal fatto che Valentino Rossi abbia 40 anni, ma Valentino Rossi ha 40 anni, chiude la sua 40, no? Forse anche un figlio di più, 41. 41 Valentino Rossi dopo a 41 anni con una serie di passati di evasioni fiscali chiude comunque la sua carriera. Qui la sua carriera motociclista e comunque ora probabilmente per un po' si dedicherà a fare il papà prima del prossimo. E inizia questa carriera di padre che insomma chissà il figlio o la figlia di Valentino. Chi sembrava invece dover iniziare una nuova carriera negli ultimi giorni, tutto collegato. Chi sembrava dover iniziare una nuova carriera era il caro Federico Lucia, al secolo Fedez, che per qualche giorno è successo un dramma tra la politica italiana e i giornali. Tutti in cui, in cui praticamente il caro Federico ha registrato un Fedez Elezioni 2023 come dominio online e quindi si è sparsa la notizia che effettivamente volesse scendere in politica. Ma raccontiamo bene questa cosa perché io non sono aggiornato. Allora, qualche giorno fa esce la notizia che è stato registrato il dominio. Tipo il online. Giornale scrive Fedez ha comprato il dominio. Fedez Elezioni 2023. E lì scatenando l'inferno della giungla politica. Questo è vero? Sì. Oddio. Scatenando l'inferno della giungla politica. Gente che dice, ah, ma quello è un cantante, cosa vuole fare? Tutti, Salvini senza che sapere, si esprime. Senza sapere nulla, no? Tutto fino a stamattina in cui il caro Federico lancia un video su Instagram riprendendo il famoso video di Silvio Berlusconi in cui l'Italia è il paese che amo e tutti quanti. Però scusa, ieri è stata la giornata in cui tutti i giornali avevano in prima pagina questa roba, giusto? No, è già 4-5 giorni che c'è sta storia. È da poco prima del weekend. Sì, hai avuto il torcicollo, non Vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Che hai dei dolori. Sta di fatto che stamattina Fedez pubblica questo video in cui lui riprende ovviamente sia le parole che i temi che erano stati presi da Berlusconi per trollare tutti quanti e semplicemente annunciare il suo disco imminente. Quindi tutti si aspettavano chissà che cosa, in realtà era tutta un'operazione di marketing gigantesca per far crescere l'hype attorno a questa cosa qua. Fedez non farà politica, probabilmente Fedez continuerà a fare il cantante, cosa che non gli viene più troppo bene, però continuerà a fare il cantante e pubblicava appunto oggi l'uscita del suo album Disumano. Ma tra l'altro, scusa, secondo voi lui è talmente consapevole della sua fama, tra virgolette, che sapeva che il solo fatto che qualcuno probabilmente avrà detto a qualche giornalista questa roba l'avrà spinta lui. Ma in realtà era che da un po' che comunque c'è questa fuga di notizia che lui vuole candidarsi, quindi secondo me, anzi, addirittura ha colto un insight che ha carpito nell'opinione pubblica e l'ha usata a suo vantaggio in questo senso. È peso comunque sta roba. Vabbè, abbastanza. Cioè, nel senso, c'è chi lo ha incoronato il genio del marketing. No, c'è anche, però è peso secondo me perché tanto la politica italiana in questo momento non è interessante, che sì, appunto, lascia spazio a cose tipo Fedez ha comprato il dominio X. Ma si nutre. Ci potrà stare come notizia, ma tipo quelle che diciamo noi, le altre notizie della settimana, a quarta pagina vicino ai panda. Ma c'è stata proprio gente, una marea di gente che ha detto, parlato. Ma Salvini, politici italiani che si sono spesi con un'opinione a riguardo. Detto questo, ottimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata. Ce l'abbiamo fatto, vi abbiamo raccontato in modo superficiale del ogni tema cosa della giungla. vi abbiamo dato le altre notizie della settimana per affrontare più o meno use case dichiarate e rappresentate da Marzi. Quindi, e raga, quindi forse vi lasciamo. Vi lasciamo. Adesso andiamo a mangiare, punto. Che ho una gran fame. Anch'io. Gran fame. Io no, perché come sapete non so riconoscere il sentimento e la fame, quindi non saprò mai. Questa potrebbe essere un'altra puntata. Esatto, la fame. Riconoscere i propri sentimenti. Frecciatina delle 21:54. Ok, grazie. Grazie a tutti. Vi per piacere, per bene. Piacere, vi prego, come appello, trovate qualcuno che sappia rispondere alla domanda: che cosa ci fa quella pasticceria in Piazzale Loreto, chiusa probabilmente, sì. Ma vorrei sapere troppo la sua storia. Che è una pasticceria, ma è tipo una tavola calda, bar e tra le altre cose. Non si capisce che cos'è. E noi vi lasciamo, niente. Esatto, vi lasciamo, vi diamo appuntamento, non vi diamo appuntamento, ma ci risentiremo tendenzialmente, probabilmente, speriamo, tra due settimane, se no si vedrà. E voi continuate a consigliare i vostri amici di consigliare seguirci. I vostri amici punto. Consigliarci i vostri amici in DM, perché io non sopporto più i miei. Grazie. Grazie mille. Vi vogliamo bene. Giro a pie ma non è sopra il ciel che voglio un aeroplà. Bimba attacca, lascia pe. Roma è bella, dice re. Culo sopra una lita. Quando la manda mon frère, Ruben Sosa. Non tengo i piedi per te. Cose, cose nell'età, nella mia spra. Cucarraccia nelle scafrate. Sembra tua lì. Sembra di stare a tua lì. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tua lì. Uomo di me, giusto sotto alle mie ska. Conto i miei pavello, mi la strano, me la sono beh. Sfioro la spa, non ti si vede più appena. Nascondi noi sagra. Si la s'allunga mon frère, la s'allunga sui tuoi fra. Tutti si rapper di dietro come la madà. Specchi blu color carrà, puro che ska. Dice sta attento mon frère. Parlano ma però pompano in giro sta me. Fanno le foto ai miei fra. Fammi una foto coi fra, fa la foto a tuori. Sembra di stare a tuori. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tuori. Sembra di stare a tuori. Sembra di stare a tuori. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tuori. Sembra di stare a tuori. Bocca della verità, resti raga o per età. Faccio un ritratto Rembrandt. Fanno le foto ai miei fra. Papà papà propica. Faccio girata al contrario. Giro coi pantaloni va. Tra surrealismo e Duchamp. Poi la foto ai Matisse. Fanno le foto a Basquiat. Fanno le foto a Dalì. Fanno le foto a Renoir. Sembra Tuori. Fammi una foto coi fra, fa la foto a Tuori. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare a Tuori. Ehi. Scendo giù dal bar, sembro tutto anche. Ho speso 2K su una sga. Pure fu francese, sputa sul cachet. Fra che cazzo a te, fai Google Translate. Le quartieri con le moto fanno le penna. Coto di per strafiche, Brasile. Due panti in guara, Aguile. Riscriviamo il libro della giungla. Il mio frate ha la pedina bella lunga. Il signore delle mo, l'isola di lo. Se le guardie chiedono qualcosa, lei dica di no. Caccio champagne, Romario Ronà. Lei tutta nuda su un sofà. Quando passo con i fra, ci fanno le foto. Perché siamo belli, belli da morì. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuori. Sembra di stare allo zoo. Senza regina.